Un mondo senza Wall Street? Per l'economista francese François Morin è possibile. Nel suo libro sostiene che lo strapotere attuale della finanza globale ha origine all'inizio degli anni 70 in una concessione della politica alla grande finanza, in particolare quella degli Stati Uniti, quando l'amministrazione repubblicana di Nixon decise la fine del sistema di Bretton Woods. Da qui, dice Morin, c'è stata l'apertura di un vasto mercato dei cambi che è diventato presto un mercato altamente speculativo. Ma negli Stati Uniti non furono solo i repubblicani, prima Nixon e poi Reagan. A cedere potere ai mercati. Il democratico Clinton nel 99 fece loro forse la concessione più ambita, e cioè la cancellazione di quella legge, il Glass-Steagall Act, di cui sentirete tra poco parlerà anche Morin, che per oltre 60 anni era stato l'argine contro il ripetersi di un nuovo crack sul modello del 29. Perché Clinton spalancò quella porta alla grande finanza che già godeva del sostegno dei teorici del neoliberismo e del monetarismo? Da qui parte l'intervista di oggi. Je crois que cela tient au fait que avec la chute du mur de Berlin, on a cru que l'économie de marché. Credo che ciò sia riconducibile al fatto che con la caduta del muro di Berlino si è creduto che l'economia di mercato fosse la sola via possibile in materia di regolamentazione delle attività economiche. Il pensiero neoliberale, che già aveva avanzato queste idee, si è trovato rafforzato dopo la caduta del muro di Berlino. E dunque anche a sinistra, per una parte della sinistra, si è creduto che l'efficacia economica risiedesse nel funzionamento dei mercati. Finalement, l'efficacité économique résidait dans le fonctionnement des marchés. On sait très bien que dans les marchés financiers. È noto che nei mercati finanziari, in particolare dalla metà degli anni 90, non c'è un'efficacia finanziaria. Faccio un esempio. Quando un prezzo di borsa aumenta in una buona economia di mercato, le persone dovrebbero acquistare meno di quel titolo finanziario, il cui prezzo è aumentato. Ciò che accade invece è esattamente il contrario. Quanto i prezzi di borsa aumentano, le persone si precipitano all'acquisto, contribuendo così al rialzo ulteriore del prezzo e alla formazione di vere e proprie bolle finanziarie. Quindi vediamo che non c'è alcuna efficacia finanziaria in questi mercati e questa assenza è all'origine dell'instabilità di questa sfera, sia monetaria che finanziaria. Questa è la ragione per la quale gli stati devono assolutamente essere presenti nella regolamentazione dei principali prezzi della sfera finanziaria. Abbiamo visto negli ultimi anni, dopo lo scoppio della crisi finanziaria nel 2007-2008, che i governi sono intervenuti per salvare il sistema bancario, sostenendo che il salvataggio fosse la priorità assoluta. La tesi era un po': se crollano le banche, crolla tutto. Lei, professor Morin, con la tesi del suo libro, quindi vuole far crollare tutto? Ce que je dis, c'est que les plus grandes banques ont développé des activités financières qui sont extrêmement spéculatives. Ciò che sostengo è che le maggiori banche hanno sviluppato delle attività finanziarie che sono estremamente speculative. Queste attività sono anche state definite come attività da casinò. La prima cosa da fare è dunque separare queste attività speculative dalle attività che sono invece assolutamente indispensabili, come i prestiti alle imprese e alle famiglie. Bisogna ritornare alla regolamentazione prevista negli Stati Uniti con il Glass-Steagall Act del 1933. È la prima cosa da fare, anche se non è sufficiente. La forza della speculazione oggi è talmente forte, non solo a causa degli hedge fund, ma anche a causa di alcuni uffici delle grandi banche che si occupano di attività finanziarie. Cette activité là au sein des banques. Donc quando si dice che bisogna limitare o fermare il potere di Wall Street, noi parliamo essenzialmente delle attività speculative. Wall Street non funziona solo attraverso azioni e obbligazioni, ma funziona essenzialmente con i prodotti derivati, con gli scambi di questi prodotti che occupano un posto fenomenale nell'attività di Wall Street. È questa parte di Wall Street che va soppressa, tornando a regolamentare i tassi di cambio e di interesse. Se gli stati riprendono il controllo sulla formazione dei tassi di cambio e di interesse, allora si sopprime in un solo colpo l'80% della speculazione mondiale che passa attraverso Wall Street e la City. Se on réglemente de nouveau, si les états reprennent la main sur la formation des taux de change et des taux d'intérêt, vous tuez d'un seul coup 90% de la spéculation mondiale qui passe par Wall Street et la City.